la farfalla. Terra adesso voli via, immagine distratta di quando e quando tu sei mia. Ritorni solo quando vuoi e poi ti lasci andare via. Ancora.